Capitolo 5. Erano passati quasi 6 mesi tra il momento dell'arresto a giugno e l'assurda decisione del presidente della Corte Suprema, il quale affermava che avevamo comunque commesso una violazione del diritto di petizione, nonostante godessimo di quel diritto in quanto sudditi. Nell'intervallo, alcuni gravi sviluppi avevano innalzato il movimento militante su un piano più alto ed eroico. Si ricorderà che una settimana prima che la nostra delegazione mettesse alla prova la legge di Carlo II, la signorina Wallace Dunlop era stata condannata a 1 mese di carcere per aver impresso un estratto del Bill of Rights sui muri della St. Stephen's Hall. Nel giorno del suo arrivo a Holloway, la sera di venerdì 2 luglio, mandò a chiamare il direttore e gli disse che pretendeva di essere trattata come un'imputata politica. Il direttore replicò che non aveva alcun potere di alterare la sentenza emessa dal magistrato, al che la signorina Wallace Dunlop lo informò che le suffragette avevano stabilito in modo definitivo che non si sarebbero mai più sottoposte al trattamento detentivo riservato ai comuni trasgressori della legge. Pertanto, se fosse stata rinchiusa nella seconda divisione come una criminale comune, si sarebbe rifiutata di toccare cibo fino a quando il governo non avesse ceduto su quel punto. È assai improbabile che il governo e le autorità carcerarie compresero la serietà del gesto della signorina Wallace Dunlop o il temperamento eroico delle suffragette. In ogni caso, il segretario di Stato non diede importanza alla lettera inviatagli dalla prigioniera, in cui spiegava semplicemente, ma in modo chiaro, i motivi del suo disperato gesto, e le autorità del carcere non fecero nulla se non tentare in qualche modo di rompere le sue resistenze. L'abituale dieta del carcere fu sostituita dalle pietanze più allettanti e il cibo, anziché esserle servito a intervalli, le veniva portato notte e giorno, ma restava sempre intatto. Diverse volte al giorno il medico le andava a controllare il battito e a constatare il suo crescente infiacchimento. Il dottore, così come il direttore alle secondine, discuteva e la minacciava e cercava di convincerla, ma senza risultato. La settimana passò senza alcun segnale di resa da parte della prigioniera. Il venerdì il medico stilò un rapporto, secondo cui la detenuta stava rapidamente giungendo a un punto in cui la morte sarebbe potuta sopraggiungere da un momento all'altro. Si tennero in tutta fretta dei colloqui tra la prigione e gli affari interni e quella sera, l'8 giugno, la signorina Wallace Dunlop fu rinviata a casa dopo aver scontato un quarto della pena e dopo aver ignorato completamente le norme della sua detenzione. Il giorno del suo rilascio, le 14 donne accusate di aver rotto le finestre ricevettero le loro sentenze e, avendo saputo del gesto della signorina Wallace Dunlop, mentre venivano portate a Holloway col furgone del carcere, si consultarono e decisero tutti insieme di seguire il suo esempio. Giunte a Holloway, informarono una per volta gli agenti che non avrebbero ceduto i propri effetti personali, che non avrebbero indossato gli abiti della prigione, che non avrebbero fatto i lavori della prigione, che non avrebbero mangiato il cibo della prigione e che non avrebbero rispettato la regola del silenzio. Il direttore acconsentì per il momento a permettere loro di tenere i propri effetti e indossare i propri abiti, ma disse loro che avevano commesso un atto di ammutinamento e che avrebbe dovuto riferirlo alla prossima visita dei magistrati. Le donne inviarono allora delle petizioni al segretario di Stato, chiedendo di ricevere il trattamento detentivo universalmente riconosciuto ai prigionieri politici. Decisero di rimandare lo sciopero della fame fino a quando il segretario di Stato non avesse replicato. Intanto, dopo un vano appello perché fosse rinfrescata l'aria, dato che la calura era davvero soffocante, le donne compirono un ulteriore atto di ammutinamento, sfasciando le finestre delle loro celle. Lo venimmo a sapere dalle stesse detenute. Alcuni giorni dopo che erano entrate in carcere, mia figlia Christabel e la signora Tuck, in ansia per il loro destino, riuscirono ad accedere al piano alto di un edificio che affacciava sulla prigione. Chiamando a voce alta e sventolando la bandiera della WSPU, attirarono l'attenzione delle prigioniere. Le donne tesero le braccia attraverso i vetri rotti, agitando fazzoletti, spille con la scritta voto alle donne, qualsiasi cosa riuscissero a procurarsi, e in poche parole urlate raccontarono la loro storia. Quello stesso giorno arrivarono in visita i magistrati, e le ammutinate furono condannate a pene dai 7 ai 10 giorni di isolamento in celle di punizione. In queste spaventose celle, buie, sporche, fradici di umidità, le detenute fecero lo sciopero della fame con la massima fermezza. Al termine dei 5 giorni, una delle donne era ridotta in condizioni tali che il segretario di Stato ne ordinò la liberazione. Il giorno dopo ne furono rilasciate diverse altre e prima della fine della settimana le ultime delle 14 donne avevano riconquistato la libertà. La vicenda suscitò un'ondata di compassione in tutta l'Inghilterra, compassione che il signor Gladstone cercò di sviare accusando due delle prigioniere di aver preso a calci e a morsi le secondine. Malgrado la loro vigorosa smentita, in base a queste accuse, le due donne furono condannate una a 10 giorni e l'altra a un mese di carcere. Sebbene fossero ancora deboli per il primo sciopero, attuarono subito un secondo sciopero della fame e nel giro di 3 giorni dovettero essere rilasciate. Dopo tutto questo, ogni nuovo gruppo di suffragette detenute, se non diversamente indirizzate, seguì l'esempio delle eroiche ribelli. I funzionari del carcere, vedendo svanire la propria autorità, furono presi dal panico. Holloway e altre prigioni femminili sparse in tutto il regno divennero teatro di violenza e brutalità. Quello che segue è il racconto di Lucy Burns della propria esperienza. Restammo immobili quando ci ordinarono di spogliarci. Quando ci dissero di andare in cella, unimmo le nostre braccia e ci mettemmo con la schiena al muro. Il governatore soffiò nel suo fischietto e una gran folla di secondine comparve all'istante. Si scagliò su di noi, ci separò e ci trascinò nelle celle. Penso che mi ritrovai addosso 12 carceriere e tutte insieme riuscirono a sgambettarmi tanto da farmi cadere a terra senza poter reagire. Una delle secondine mi afferrò per i capelli, si arrotolò la treccia al polso e mi trascinò letteralmente sul pavimento. Una volta in cella mi strapparono i vestiti da dietro, mi misero a forza un camice di cotone ruvido e gettarono il resto sul letto, lasciando che me lo infilassi da sola. Una volta sola, esausta per l'orribile esperienza, rimasi sul pavimento a tremare, respirando a fatica. Dopo un po' una secondina venne nella mia cella e mi gettò una coperta. Mi ci accolsi dentro perché il freddo mi era arrivato alle ossa. Il camice di cotone grezzo e la ruvida coperta sono tutto ciò che indossai per l'intera durata della mia detenzione. Molte delle prigioniere rifiutarono tutto, eccetto la coperta. Come d'accordo tra noi, sfasciammo tutte le finestre e fummo immediatamente trasferite in celle di punizione. Lì facemmo lo sciopero della fame e dopo aver resistito ad ogni supplizio per quasi una settimana, fummo rilasciate una dopo l'altra. Con quanta semplicità lo dicono, dopo aver resistito ad ogni supplizio. Ma chi non ha mai fatto la tremenda esperienza dello sciopero della fame non può avere idea di quanto grande sia quel supplizio. In una normale cella è già grande abbastanza. Nell'indicibile squallore delle celle di punizione è ancora peggio. Gli spasmi della fame durano al massimo 24 ore per la maggior parte delle detenute. Io di solito soffrivo di più il secondo giorno. Passato quel momento non si sente più un bisogno disperato di cibo. La debolezza e la depressione prendono il suo posto. Forti disturbi nella digestione devono il desiderio del cibo a quello di trovare sollievo dal dolore. Si ha spesso un intenso mal di testa accompagnato da vertigini o da un leggero delirio. La totale spossatezza e un senso di isolamento della terra segnano la fase culminante del calvario. Spesso il recupero è lungo e il pieno ritorno alle normali condizioni di salute è talvolta lento in modo sconfortante. Il primo sciopero della fame fu attuato all'inizio di luglio. Nei 2 mesi che seguirono, decine di donne adottarono la medesima forma di protesta contro un governo che non voleva riconoscere la natura politica dei loro reati. In alcuni casi le scioperanti furono trattate con una crudeltà senza precedenti. Fragili donne furono condannate non solo all'isolamento, ma a portare le manette per 24 ore alla volta. Una donna che si era rifiutata di indossare i vestiti della prigione fu chiusa in una camicia di forza. L'ironia di tutto questo appare ancora più evidente se si considera che in quello stesso periodo i leader del Partito Liberale alla Camera dei Comuni erano nel pieno della loro campagna contro il potere di veto dei Lord. Il 17 settembre si tenne una grande assemblea a Birmingham, occasione nella quale il signor Asquith si preparava a gettare la sua sfida ai Lord e ad annunciare che il loro diritto di veto stava per essere abolito, mantenendo sovrana la volontà del popolo in Inghilterra. Ovviamente le suffragette colsero questa opportunità per indire una manifestazione. Era un percorso perfettamente logico. Negato il diritto di petizione, ormai escluse da ogni riunione del Consiglio dei Ministri, le donne erano costrette a sfruttare qualsiasi mezzo a loro disposizione per portare la propria causa all'attenzione del governo. La signora Mary Leight e un gruppo di associati di Birmingham avvertirono il pubblico di non partecipare all'assemblea di Esquite, perché si sarebbero verificati sicuramente degli scontri. Dal momento in cui il primo ministro e il suo gabinetto partirono dalla Camera dei Comuni fino a quando il treno li fece scendere alla stazione di Birmingham, furono completamente circondati da ispettori e poliziotti. Le precauzioni prese per proteggere Esquite non sono mai state eguagliate, se non nel caso dello zar allo scoppio della rivoluzione russa. Dalla stazione fu condotto attraverso un passaggio sotterraneo a 500 metri dal suo albergo, dove cenò da solo dopo essere stato portato in camera con un montacarichi per i bagagli. Scortato alla Bingley Hall da un nutrito schieramento di polizia a cavallo, era talmente spaventato all'idea di incontrare le suffragette che entrò da una porta laterale. La sala era protetta come per un assedio. Sul tetto di vetro era stato steso un grosso telone. Alte scale erano state posizionate da ogni lato dell'edificio e vari estintori erano pronti all'uso. Non per spegnere il fuoco, ma per respingere le suffragette nel caso in cui fossero apparse da qualche punto inaccessibile sopra il tetto. Le strade erano barricate da ogni parte e la polizia a reggimenti era schierata per difendere i blocchi dalle cariche delle donne. A nessuno era consentito oltrepassare le barricate senza mostrare il biglietto d'ingresso a lunghe file di poliziotti e chi aveva il biglietto veniva premuto nelle porte strette uno per volta. Le loro precauzioni furono inutili perché le tenaci suffragette trovarono più di un varco per trasformare il trionfo di Esquite in un fiasco. Anche se nessuna donna riuscì a conquistare l'accesso alla sala, erano presenti tanti uomini simpatizzanti della causa e nelle prime fasi della riunione 13 uomini furono buttati fuori violentemente per aver ricordato al primo ministro che il popolo, i cui diritti si vantava di voler amministrare e sostenere, includeva le donne tanto quanto gli uomini. Di fuori, mescolate alla vasta folla, bande di donne assaltarono le barricate. I blocchi più esterni vennero sfondati a dispetto delle migliaia di poliziotti schierati. La signora Leith e Charlotte Marsh strapparono decine di pezzi di ardesia dal tetto di una casa vicina e li lanciarono sul tetto della Bingley Hall e nelle strade sottostanti, stando comunque attenta a non colpire nessuno. Quando il signor Esquite scappò via in macchina, le donne scagliarono l'ardesia contro l'autovettura blindata. La macchinetta fu tirata fuori e i pompieri ricevettero l'ordine di indirizzare l'acqua sulle donne. Si rifiutarono, va detto a loro credito, ma la polizia, infuriata per la propria incapacità a mantenere l'ordine, non si fece scrupolo di sparare l'acqua fredda sulle donne, che stavano accovacciate e aggrappate alle pericolose pendenze del tetto. Alcuni teppisti gettarono dei mattoni contro di loro, ferendole a sangue. Alla fine le donne furono buttate giù dalla polizia e coi loro vestiti gocciolanti marciarono per le vie verso la stazione di polizia. Le suffragette che avevano assaltato le barricate e lanciato pietre al treno in partenza del signor Esquite furono condannate a reclusioni che andavano da 2 settimane a un mese, ma la signorina Marsh e la signora Leight furono mandate in carcere rispettivamente per 3 e 4 mesi. Tutte le prigioniere fecero lo sciopero della fame come ci aspettavamo. Diversi giorni più tardi fummo sconvolte nel leggere sui giornali che queste detenute erano state nutrite con la forza tramite un tubo di gomma cacciato nello stomaco. Membri dell'Unione fecero subito richiesta sia alla prigione sia agli affari interni per conoscere la verità sul rapporto, ma fu negato ogni tipo di informazione. Il lunedì seguente, su nostra richiesta, Keir Erdi, durante il question time alla Camera, insisté per aver chiarimenti dal governo. Il signor Mesterman, parlando a nome del segretario di Stato, ammise malvolentieri che al fine di preservare la dignità del governo e al contempo per salvare la vita delle detenute, era stata effettuata una terapia ospedaliera. Terapia ospedaliera era l'espressione usata per sviare l'attenzione da uno degli espedienti più brutali e disgustosi a cui ricorrevano le autorità carcerarie. Nessuna legge consentiva quelle pratiche, se non per soggetti certificati come malati di mente. E anche nel caso in cui l'operazione fosse eseguita da infermieri qualificati sotto la direzione di personale medico qualificato, non si potrebbe definire sicura. Di fatto, i casi da manicomio solitamente muoiono poco dopo. The Lancet, forse la più autorevole rivista medica in inglese, pubblicò un lungo elenco di opinioni di illustri signori, medici e chirurghi, che condannavano la pratica usata sulle detenute suffragiste come un atto indegno per un paese civilizzato. Un dottore raccontò un caso che aveva tenuto sotto osservazione, in cui la morte era sopravvenuta quasi all'istante nel momento in cui era stato inserito il tubo. Un altro citò il caso in cui la sua lingua, deviata dal tubo di alimentazione, era stata quasi staccata a morsi dal soggetto che tentava di divincolarsi. Si conoscevano anche casi in cui il cibo era stato iniettato direttamente nei polmoni. Il signor Cimencel Mullin, dottore in medicina, fellow of the Royal College of Surgeons, scrisse sul Times che in qualità di chirurgo d'ospedale con più di 30 anni di esperienza, desiderava protestare con indignazione contro l'espressione del governo terapia ospedaliera usata in relazione all'alimentazione forzata delle donne. Era una ributtante calunnia, dichiarò, perché in ospedale non c'è posto per la violenza e la brutalità. Una memoria firmata da 116 famosi dottori fu indirizzata al primo ministro per protestare contro la pratica dell'alimentazione forzata e per evidenziare nel dettaglio i gravi rischi che comportava. E questo è quanto sull'impegno dei medici contro una forma di brutalità che continuava e ancora continua nelle nostre carceri inglesi come punizione per le donne detenute per obiezione di coscienza. Quanto alla testimonianza delle vittime, lo scenario che emerge è dei più rivoltanti. La signora Leight, la prima vittima, è una donna di robusta costituzione, altrimenti non sarebbe forse riuscita a sopravvivere all'esperienza. Rinchiusa nel carcere di Birmingham, dopo la dimostrazione contro Asquith, aveva rotto la finestra della sua cella e per punizione fu gettata in una cella punitiva buia e gelida. Le sue mani restavano ammanettate dietro la schiena durante il giorno e di notte sul davanti con i palmi all'infuori. Si rifiutava di toccare il cibo che le veniva portato e 3 giorni dopo il suo arrivo fu condotta nella stanza del medico. Quello che vide era abbastanza per terrorizzare anche i più coraggiosi. Al centro della stanza c'era una tozza sedia adagiata sul lenzuolo di cotone. Addosso alla parete, pronta all'azione, c'erano 4 secondine. Era presente anche un medico tirocinante. Il dottore disse: «Ascoltate quello che ho da dirvi. Ho avuto ordine dai miei superiori di non farvi rilasciare neanche per motivi di salute. Se vi asterrete ancora dal cibo, dovrò prendere altre misure per costringervi a prenderlo». La signora Leight replicò che lo rifiutava ancora e poi disse che sapeva di non poter essere legalmente alimentata a forza, perché non si poteva eseguire un'operazione del genere senza il consenso della paziente sana di mente. Il dottore ripeté che aveva ricevuto degli ordini e che li avrebbe eseguiti. Alcune carceriere si scagliarono contro la signora Lee e mobilizzarono e inclinarono la sua sedia all'indietro. Fu colta talmente di sorpresa che in quella circostanza non riuscì a opporre resistenza. Le fecero inghiottire un po' di cibo da una tazza. Più tardi i 2 medici e le secondine entrarono nella sua cella, gettarono la signora Lei sul letto e la tennero bloccata. Davanti al suo sguardo terrorizzato, i dottori tirarono fuori un tubo di gomma, lungo quasi 2 metri, e uno di loro cominciò a ficcarglielo su per le narici. Il dolore era talmente atroce che iniziò a strillare. 3 delle secondine scoppiarono in lacrime e il tirocinante pregò l'altro dottore di desistere. Avendo avuto ordini precisi dal governo, il medico andò avanti, il tubo fu spinto fin giù nello stomaco. Uno dei medici era in piedi su una sedia e reggeva il tubo versando dall'alto del cibo liquido attraverso un imbuto, soffocando quasi la povera vittima. «I timpani delle orecchie!» raccontò lei in seguito. «Sembravano esplodermi! Sentivo il dolore fino alle ossa del torace! Quando il tubo alla fine venne estratto, era come se mi avessero strappato via anche il naso e la gola!» Pressoché svenuta, la signora Lee fu portata nella cella punitiva e lasciata lì sul letto di tavole. Il calvario si ripeté giorno dopo giorno. Le altre detenute subirono trattamenti simili. Libro 6. Il movimento militante era giunto a questo punto quando nell'ottobre 1909 mi recai per la prima volta negli Stati Uniti. Non scorderò mai l'eccitazione dello sbarco. Il primo incontro con il giornalista americano, un'esperienza temuta da tutti gli europei. A dire il vero, i primi giorni sembrarono tutti uno sconcertante turbinio di giornalisti e ricevimenti, fino alla mia prima conferenza alla Carnegie Hall del 29 ottobre. La grande sala era completamente piena e un'enorme folla di gente era assiepata nelle strade per vari isolati. Con me sul palco c'erano diverse donne che avevo conosciuto in Europa e a presiedere c'era una vecchia amica, la signora Stanton Blatch, che da sposata aveva vissuto in Inghilterra. La grande folla che avevo davanti, tuttavia, era composta da stranieri e non potevo sapere come avrebbero reagito alla mia storia. Quando mi alzai per parlare, calò un profondo silenzio, ma le mie prime parole, "Io sono quella che voi chiamate un hooligan, una teppista", uno scoppio di risate calorose e solidali fece tremare le pareti. A quel punto compresi di aver trovato degli amici in America. E ciò fu dimostrato da tutto il resto del mio tour. A Boston il comitato mi accolse con una grande automobile grigia decorata con i colori della WSPU e quella sera al Tremont Temple parlai davanti a 2.500 persone, tutte molto generose e reattive. A Baltimora, professori e studenti della John Hopkins University fecero da servizio d'ordine all'assemblea. Mi trovai benissimo al Brian Moore College e al Rosemary Hall, uno splendido istituto femminile nel Connecticut. A Chicago conobbi tra tante persone di valore la signorina Jane Adams e la signora Ella Flagg Yuth, sovrintendente scolastico. Serberò sempre il ricordo della mia visita in Canada, in particolare a Toronto, dove il sindaco in alto uniforme mi diede il benvenuto. Incontrai anche il venerabile Goldwin Smith, che sarebbe morto da lì a poco. Trovai ovunque americani cortesi ed entusiasti, e posso dire solo bene della meravigliosa ospitalità che mi riservarono. Le donne che incontrai dimostravano tutte un grande interesse per lo stato sociale. Il lavoro dei circoli femminili mi colpì assai positivamente e pensai a queste associazioni come una base perfetta per un movimento suffragista. Ma al tempo, il 1909, il movimento suffragista negli Stati Uniti versava in un curioso stato di quiete. Molte donne con cui entrai in contatto sembravano pensare solo che avrebbero dovuto avere il diritto di voto, ma in poche lo sentivano effettivamente come un bisogno urgente. Alcune, è vero, stavano iniziando a mettere in connessione il voto con le riforme per cui si stavano adoperando con tanto altruismo e tanta devozione. Fu quando parlai con le donne più giovani che mi resi conto che in America, sotto la superficie, fremeva un forte attivismo suffragista. Queste giovani, lasciate le loro splendide università per cominciare a vivere, stavano comprendendo in maniera assai intelligente che avevano il bisogno e l'obbligo di assicurarsi uno status politico. Il 1 dicembre salpai per l'Inghilterra con la Mauretania e quando giunsi a destinazione appresi che la pena carceraria che pendeva su di me, in attesa che il caso delle petizioni venisse riesaminato, era stata condonata, poiché un ignoto amico aveva pagato la cauzione mentre mi trovavo in mezzo all'oceano. Il 1910 iniziò con un'elezione generale, anticipata per via della bocciatura da parte della Camera dei Lord del bilancio pubblico del 1909, opera di Lloyd George. Il Partito Liberale girò per il paese promettendo nuove tasse sui valori fondiari. Promise anche l'abolizione del potere di veto dei Lord, l'Home Rule irlandese, la delegittimazione della Chiesa del Galles e altre riforme. Il suffragio femminile non fu promesso direttamente, ma il signor Asquith si impegnò, se avesse mantenuto la carica, a presentare un progetto di riforma elettorale che poteva essere emendato per includere il suffragio femminile. Gli unionisti, sotto la leadership di Balfour, avevano in programma una riforma delle tariffe doganali e non fecero neppure una vaga promessa di una possibile misura a favore del suffragio femminile. Ma noi, come al solito, andammo in tutte le circoscrizioni a fare opposizione al Partito Liberale. Non ci fidavamo della promessa di Asquith e, oltretutto, se avessimo fallito nell'opporci al partito che era al potere, avremmo indotto Asquith e Balfour a fare un'intesa che non si sarebbe affatto occupata del suffragio, con il rischio di escludere per sempre la nostra causa dall'esercizio politico. Eravamo per certi versi nella stessa posizione dei nazionalisti irlandesi del 1885, quando né i leader liberali né quelli conservatori volevano includere l'Home Rule nei loro programmi. Gli irlandesi fecero opposizione al Partito Liberale, col risultato che il governo liberale fu rieletto con una maggioranza talmente risicata che dipendeva dal voto degli irlandesi in Parlamento per rimanere in carica. Per questo motivo fu obbligato a presentare l'Home Rule Bill. Le altre associazioni suffragiste, le donne liberali, ci pregarono di non fare opposizione al Partito Liberale per queste elezioni. Ci supplicarono di rinunciare alla nostra rivendicazione solo per questa volta, vista l'importanza della battaglia tra la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord in materia di bilancio. Replicammo che la medesima preghiera ci era stata rivolta nel 1906, quando ci implorarono di rinunciare alle nostre rivendicazioni solo per questa volta, a proposito della questione fiscale. Rispondemmo che per le donne la questione politica era soltanto una, quella della loro emancipazione. La disputa tra la Camera dei Lord e quella dei Comuni era assai meno vitale della richiesta della gente, rappresentata in questo caso dalle donne, a vedersi riconosciuto il diritto di cittadinanza. Dal nostro punto di vista, nessuna delle due Camere del Parlamento poteva dirsi rappresentativa finché le donne non avessero avuto voce nello scegliere i legislatori e influenzare la produzione della legge. Facemmo opposizione ai candidati liberali in 40 circoscrizioni e in quasi tutte la maggioranza liberale fu ridotta e non meno di 18 seggi furono strappati ai candidati liberali. Fu davvero una tornata elettorale terribile per il governo. Il signor Asquith viaggiò da una circoscrizione all'altra accompagnato dai suoi guardaspalle e buttò fuori ufficiali, il cui solo compito era di espellere le donne, oltre agli uomini, che interrompevano le sue riunioni facendo domande sulla questione del voto alle donne. Le sale dove teneva i suoi discorsi avevano le finestre sbarrate con le assi di legno o i vetri coperti da fitte reti metalliche. Ogni via d'accesso alle rispettive sale era interdetta, il traffico sospeso e grandi forze di polizia facevano la guardia. Le precauzioni più eccezionali venivano prese per proteggere il primo ministro. In una città andò alla sua riunione energicamente scortato e compiendo un percorso segreto che conduceva all'ingresso posteriore della sala, passando per cespugli di uva spina e campi di cavolfiori. Dopo la riunione scappò dalla stessa porta e fu guidato in pompa magna lungo un sentiero cosparso di segatura per eliminare le sue tracce, fino a una vettura nascosta, dentro cui rimase acquattato finché la folla non si fu dispersa. Gli altri ministri erano ricorsi a precauzioni simili. Vivevano costantemente sotto scorta. Le loro riunioni erano guardate a vista dalla polizia in un modo che non aveva precedenti. Ovviamente nessuna donna era ammessa alle loro riunioni, anche se poi entrarono lo stesso. Due donne si nascosero per 25 ore tra le travi di una sala di Louth, dove si sarebbe tenuto il discorso di Lloyd George. Furono arrestate, ma non prima di aver messo in scena la loro dimostrazione di protesta. Altre due si nascosero per 22 ore sotto un palco, solo per porre una domanda al primo ministro. Potrei citare altri esempi all'infinito. Avevamo stampato un bellissimo manifesto che mostrava la pratica dell'alimentazione forzata e lo esponemmo dovunque su dei cartelloni. Dicemmo agli elettori che il Partito Liberale, l'amico della gente, aveva mandato in prigione 450 donne per aver commesso il crimine di reclamare il diritto di voto. Torturavano le donne a Holloway. Era un argomento forte e lo utilizzammo. Il Partito Liberale ritornò al potere, ma la sua maggioranza in tutte le sezioni della Camera dei Comuni si era sfaldata. La sopravvivenza del governo Asquith adesso dipendeva dai voti del Partito Laburista e dei nazionalisti irlandesi.